fuggono. Ad alta voce, Rolando Ravello legge Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, traduzione di Tommaso Pincio. I dettagli della prolungata e tumultuosa discussione che terminò con il nostro radunarsi in quella stanza dell'Hotel Plaza mi sfuggono. Sebbene serbi netto il ricordo fisico della biancheria attorcigliata addosso alle mie gambe come un serpente bagnato e delle intermittenti gocce di sudore che mi scendevano gelide lungo la schiena. L'idea scaturì dalla proposta di Daisy di affittare 5 stanze da bagno e immergerci in una vasca di acqua fredda, e assunse quindi la più tangibile forma di un posto dove prendere un whisky e menta. Ognuno di noi ripeté più volte che si trattava di un'idea folle. Parlammo tutti insieme a uno sconcertato portiere e pensammo, o fingemmo di pensare, di essere molto divertenti. La stanza era grande e opprimente. E malgrado fossero già le 4, aprendo le finestre entrò soltanto una folata di caldo, proveniente dalla vegetazione di Central Park. Daisy andò allo specchio e si sistemò i capelli, dandoci le spalle. È una specie bella che mi di loro con il e tutti risero. Aprite un'altra finestra, ordinò Daisy, senza girarsi. Non ce ne sono altre. Beh, quando è così, telefoniamo e facciamoci portare un ash. La cosa da fare è dimenticarsi il caldo, disse Tom ansioso. Bagnandoti non fai che peggiorare la situazione. Svolse dall'asciugamano la bottiglia di whisky e la mise sul tavolo. «Perché non la lasciate in pace, vecchia Lenza?» rimarcò Gatsby. «Siete stato voi a voler venire in città?» Ci fu un momento di silenzio. L'elenco telefonico scivolò dal chiodo cui era appeso e si schiantò in terra, al che Jordan bisbigliò. «Chiedo scusa, ma stavolta non rise nessuno. Lo raccolgo», mi offrì. «Ci penso io». Gatsby esaminò la corda spezzata, borbottò un in tono interessato e lanciò il volume su una sedia. «È la vostra espressione preferita, eh?» disse Tom, acido. «Di che parlate? Questa storia della vecchia Lenza che ripetete in continuazione, dove l'avete pescata?» «Ora stammi bene a sentire, Tom», disse Daisy voltandosi dallo specchio. «Se hai intenzione di fare appunti personali, non resterò un minuto di più. Piuttosto vedi di chiamare perché ci mandino del ghiaccio per il whisky e menta». Non appena Tom sollevò il ricevitore, il calore compresso deflagrò in suono e ci ritrovammo ad ascoltare gli accordi portentosi della marcia nuziale di Mendelssohn provenienti dalla sala da ballo sul sostante. «Ma come ci si può sposare con questo caldo?» esclamò Jordan inorridita. «Eppure io mi sono sposata a metà giugno», ricordò Daisy, «a Louisville, in giugno. Svenne qualcuno. Chi fu a svenire, Tom?» «Bill Oxy», rispose lui secco. «Un tipo di nome Bill Oxy, Bill Oxy detto Blocks, e fabbricava bare, ve l'assicuro, ed era di Bill Oxy, Tennessee. Lo portarono a casa mia», aggiunse Jordan, «perché abitavamo a 2 passi dalla chiesa, e ci rimase 3 settimane finché papà non gli disse che doveva sparire. Il giorno dopo la sua partenza papà morì». Un istante dopo, come nel timore di aver detto qualcosa di irriverente, precisò, «non che le due cose siano legate». «Io conoscevo un certo Bill Oxy di Memphis», osservai. «Era suo cugino. Ebbi modo di conoscere l'intera storia della sua famiglia prima che se ne andasse. Mi regalò un putter di alluminio che uso ancora». La musica era scemata con l'inizio della cerimonia e adesso un lungo applauso giunse dalla finestra, seguito da grida discontinue che dicevano «sì!» e infine un'esplosione di jazz riaprì le danze. «Stiamo invecchiando», disse Daisy. «Se fossimo giovani ci saremmo alzati e avremmo ballato». «Ricordati di Bill Oxy», clamò Jordan. «Dove l'avevi conosciuto, Tom?» «Bill Oxy», fece uno sforzo di concentrazione. «Non lo conoscevo mica io, era un amico di Bill. «Neanche per sogno», negò lei. «Non lo avevo mai visto prima, era su una delle tue carrozze private». «Beh, lui disse che ti conosceva, disse che era cresciuto a Louisville. Lo portò a Asabird all'ultimo minuto, domandando se c'era posto per lui». Jordan sorrise. «Probabilmente stava solo scroccando un passaggio per tornare a casa. Mi disse che era stato presidente del vostro corso a Yale». Io e Tom ci guardammo basiti. «Bill Oxy!» «Per cominciare, non avevamo nessun presidente!» Il piede di Gatsby tamburellava smaniosamente ed un tratto Tom lo puntò. «A proposito, signor Gatsby, mi è parso di capire che avete studiato a Oxford!» «Non esattamente. Oh, certo, quel che ho capito è che siete stato a Oxford!» «Sì, ci sono stato!» Una pausa. Quindi la voce di Tom, incredula e offensiva. «Dovete esserci stato nello stesso periodo in cui Bill Oxy era a New Haven». Un'altra pausa. Un cameriere bussò ed entrò con mente e ghiaccio tritato, ma il silenzio non venne spezzato dal suo «grazie», né dalla porta chiusa con delicatezza. Questo tremendo dettaglio attendeva un chiarimento definitivo. «Vi ho detto che ci sono stato», ribadì Gatsby. «Vi ho sentito, ma mi piacerebbe sapere quando». «È stato nel 19, ci rimasi soltanto 5 mesi. Ecco perché non mi sento di affermare di avere studiato a Oxford». Tom si guardò attorno per vedere se condividevamo il suo scetticismo, ma eravamo tutti fissi su Gatsby. «Fu offerta questa opportunità da alcuni ufficiali dopo l'armistizio», seguitò. «Potevamo andare in qualunque università inglese o francese». Avrei voluto alzarmi e dargli una pacca sulla spalla. La completa fiducia in lui che mi era capitato di provare in precedenza si era rinnovata. Daisy si alzò, accennando un sorriso, e andò al tavolo. «Apri il whisky, Tom», ordinò, «che io preparo la menta, così smetterai di sentirti tanto stupido. Fai attenzione alla menta». «Aspetta un attimo», disse Tom in modo sgarbato. «Voglio chiedere un'altra cosa al signor Gatsby». «Fate pure», replicò Gatsby senza scomporsi. «Si può sapere che razza di tensione state cercando di creare in casa mia?» Erano finalmente giunti a sfidarsi a viso aperto. E Gatsby ne era soddisfatto. «Non è lui che sta creando tensione», Daisy spostò il suo sguardo disperato da uno all'altro. «Sei tu a creare tensione, per favore, vedi di controllarti». «Controllarmi?» ripeté Tom incredulo. «Immagino che in base alla moda corrente dovrei tornare a sedere e lasciare che un signor nessuno spuntato dal nulla faccia l'amore con mia moglie. Beh, se è questo che hai in mente, non contare su di me. Al giorno d'oggi la gente non farà che scrivere la vita familiare e sui valori. Di questo passo si finirà per mandare tutto in malore e sposarsi tra bianchi e neri». Rosso in viso per il focoso e sconclusionato monologo, si vide ergersi solitario quale estremo baluardo della civiltà. «Siamo tutti bianchi qui», mormorò Jordan. «So di non essere molto popolare, non do grandi feste. Suppongo si debba trasformare casa propria in un porcile se si vogliono avere degli amici nel mondo moderno». Per quanto fossi arrabbiato, e lo fossimo tutti, mi veniva da ridere ogni volta che apriva la bocca. La transizione da libertino a moralista era adesso davvero completa. «Adesso devo dire io una cosa a voi, vecchia Lenza», cominciò Gatsby, ma Daisy immaginò le sue intenzioni. «No, per favore», lo interruppe stretta in un angolo. «Vi prego, andiamo a casa, perché non torniamo tutti a casa?» «Ecco, una buona idea», mi alzai. «Andiamo, Tom, nessuno vuole bere». «Voglio sentire cosa ha da dirmi il signor Gatsby». «Vostra moglie non vi ama», disse Gatsby. «Non vi ha mai amato. Lei ama me». Two loves have I, and they tear me apart. Two loves have I, both are in my heart. One is a and the other flame. Two loves have I, but they're not the same. When I'm in a gay mood, 'tis then my light love I crave. But then at times my other love makes me a slave. I can't deny that to both I am true. Two loves have I, Voi dovete essere pazzo!» esclamò Tom d'impulso. Gatsby scattò in piedi in preda all'eccitazione. «Non vi ha mai amato, mi avete inteso?» urlò. «Vi ha sposato solo perché io ero povero ed era stanca di aspettarmi. È stato un terribile sbaglio, ma nel suo cuore lei non ha mai amato altri che me». A questo punto io e Jordan cercammo di andarcene, ma Tom e Gatsby insisterono, gareggiando in fermezza affinché restassimo. Come se nessuno dei due avesse nulla da nascondere, e fosse per noi un privilegio quello di condividere, seppure in maniera indiretta, le loro emozioni. «Siediti, Daisy». La voce di Tom cercò senza successo di assumere un tono paternalistico. Cosa sta succedendo? Voglio sapere tutto. Vi ho già detto cosa sta succedendo, replicò Gatsby. Sta succedendo da 5 anni e non ve ne siete mai accorto. Tom si voltò bruscamente verso Daisy. Tu frequenti questo individuo da 5 anni? Frequentarci no, disse Gatsby. No, non potevamo vederci. Ma per tutto questo tempo non abbiamo mai smesso di amarci, vecchia Lenza. E voi eravate all'oscuro. Mi è venuto da ridere certe volte, ma non c'era la benché minima traccia di riso nei suoi occhi, al pensiero che non sapevate nulla. Oh, tutto qui. Tom congiunse le sue dita massicce alla maniera dei preti e si abbandonò nella poltrona. Voi siete pazzo, esplose poi. Non posso esprimermi su quanto accadde 5 anni fa perché non conoscevo ancora Daisy all'epoca. E che sia dannato se capisco come abbiate potuto trovarvi a meno di 1 chilometro da lei, se non nei panni di un garzone di bottega che entra dalla porta di servizio. Stabilito questo, il resto non sono che fandonie colossali. Daisy amava me quando mi ha sposato e seguita ad amarmi adesso. No, disse Gatsby, scuotendo il capo. Sì, invece, nonostante tutto, mi ama. Il problema è che certe volte si mette in testa di scegliere che non si rende più con quello che fa. Annuì con fare assennato. E quel che più conta è che anch'io l'amo. Mi capita di concedermi una scappatella di quando in quando e di commettere io stesso qualche sciocchezza, ma torno sempre da lei perché in fondo al cuore l'amo sempre e comunque. Sei disgustoso, disse Daisy. Si voltò verso di me e la sua voce, crollando di un'ottava, riempì la stanza di fremente disprezzo. Sai perché abbiamo lasciato Chicago? Sono sorpresa che non ti abbiano ragguagliato circa la storia di quella piccola scappatella. Gatsby si mise al suo fianco. Daisy, è tutto passato adesso, disse in tono solenne. Non ha più importanza, digli solo la verità, che non l'hai mai amato e tutto sarà cancellato per sempre. Lei lo osservò con sguardo perso. Ma come? Come ho potuto amarlo? Come? Tu non l'hai mai amato. Lei esitò. Posò gli occhi su Jordan e me in una sorta di supplica, come si fosse finalmente accorta di quel che stava facendo, come se non avesse mai e poi mai voluto fare alcunché. Ma adesso era fatta. Era troppo tardi. Non l'ho mai amato, disse con evidente riluttanza. Nemmeno a Capiolani? Domandò Tom d'improvviso. No. Dalla sala da ballo sottostante, accompagnato da una modalità calda, saliva il suono di note ovattate e asfissianti. Nemmeno quel giorno che ti ho portata in braccio uscendo dal punch bowl perché non ti bagnassi le scarpe. C'era una tenerezza virile nella sua voce. Daisy, per favore. Il tono di lei era freddo, ma senza più il rancore di prima. Guardò Gatsby. Vedi, Jay, disse, ma nel cercare di accendere una sigaretta le tremò la mano. Di colpo gettò via la sigaretta e il fiammifero ancora ardente sul tappeto. No, tu chiedi troppo, gridò a Gatsby. Ti amo adesso, non è abbastanza, non posso cambiare il mio passato. Non poté trattenere le lacrime. L'ho amato un tempo, ma ho amato anche te. Gatsby sbatté le palpebre. Hai amato anche me, ripeté. Anche questa è una menzogna, disse Tom inferocito. Non sapeva nemmeno che foste vivo. Al diavolo, ci sono cose tra Daisy e me che voi non saprete mai, cose che nessuno di noi potrà mai dimenticare. Queste parole furono come dei veri e propri morsi nella carne viva di Gatsby. Voglio parlare con Daisy, da solo, insisté. È troppo tesa adesso. Nemmeno da sola potrei dire di non aver mai amato Tom, ammise lei con voce penosa. Non sarebbe vero. Non sarebbe vero, no, concordò Tom. Lei si voltò verso il marito. Come potete se poniva stato qualcosa? Certo che mi importa, ti sarò più vicino d'ora in avanti. Voi non capite, disse Gatsby con un filo di panico. D'ora in avanti non le starete mai più vicino. Ah no! Tom sgranò gli occhi e rise. Era in grado di controllarsi adesso. Che storia è questa? Daisy vi sta lasciando. Sciocchezze! È così, però, disse lei con uno sforzo palese. Lei non mi sta lasciando. Le parole di Tom si abbatterono su Gatsby come una scure. Di sicuro non per un imbroglione qualunque che dovrebbe rubare l'anello da infilarle al dito. Non voglio ascoltare altro, urlò Daisy. Andiamocene, per favore. Del resto chi siete? Esplose Tom. Voi siete parte di quella combriccola che ronza attorno a Meyer Wolfsheim. Questo è quanto sono venuto a sapere. Ho fatto le mie piccole indagini e domani andrò avanti con le ricerche. Fate pure quel che vi pare, vecchia Lenza, disse Gatsby deciso. Ho scoperto cos'erano le vostre farmacie. Si voltò verso di noi e parlò in modo trafelato. Lui e questo Wolfsheim hanno comprato un bel po' di farmacie non troppo in vista qui e a Chicago e le hanno usate per vendere etanolo sottobanco. E questa è solo una delle sue piccole trovate. L'ho detto fin dal primo momento che era un contrabbandiere e non mi sbagliavo. E con questo, disse Gatsby compito, non mi pare che il vostro amico Walter Chase sia stato così nobile da restarne fuori. E voi l'avete piantato in asso sul più bello, vero? Avete lasciato che finisse in galera per un mese in New Jersey. Dio, dovreste sentirlo, Walter, quando si parla di voi. Si presentò da noi al verde. Non gli dispiacque affatto di raggranellare qualche soldo, vecchia Lenza. Non chiamatemi vecchia Lenza, urlò Tom. Gatsby non disse nulla. Walter avrebbe potuto denunciarvi anche per la faccenda delle scommesse, ma Wolfsheim lo ha spaventato a morte, tappandogli così la bocca. Ricomparve sul volto di Gatsby quell'espressione strana ma familiare. Le farmacie sono niente in confronto al resto, proseguì Tom lentamente. Adesso siete immischiato in qualcosa che Walter ha paura di rivelarmi. Diede un'occhiata a Daisy, il cui sguardo atterrito era preso tra Gatsby, il marito e Jordan, la quale aveva iniziato a tenere in equilibrio sulla punta del mento un oggetto che, quantunque invisibile, assorbiva tutta la sua attenzione. Dopodiché tornai a girarmi verso Gatsby e restai sbigottito dalla sua espressione. Aveva l'aria, e sia detto col massimo disprezzo per le maldicenze circolate nel suo giardino, di uno che abbia ucciso un uomo. Per un momento quella fantastica ipotesi fu l'unico modo possibile per descrivere l'atteggiamento del suo viso. Scomparsa quell'espressione, cominciò a parlare in tono eccitato a Daisy, negando tutto, difendendo il suo nome contro accuse che non gli erano state rivolte. Ma a ogni sua parola lei si ritraeva sempre più in se stessa. Così lui rinunciò. E soltanto il sogno infranto seguitò a combattere, mentre il pomeriggio scivolava via, cercando di toccare quel che non era più tangibile, sforzandosi di raggiungere, infelice ma senza disperazione, la voce perduta dall'altra parte della stanza. La voce implorò ancora di andar via. «Ti scongiuro, Tom, non ne posso più!» Gli occhi spaventati di Daisy dicevano che qualunque intenzione lei avesse avuto e qualunque coraggio avesse mai trovato, quelle intenzioni e quel coraggio erano adesso definitivamente scomparsi. «Cominciate ad avviarvi voi due, Daisy», disse Tom, con l'auto del signor Gatsby. Lei guardò Tom allarmata, ma lui persisté nel suo sdegno magnanimo. «Vai pure, non ti darà alcuna noia. Credo abbia compreso che il suo arrogante amoreggiamento da quattro soldi è giunto al capolinea». Se ne andarono senza una parola, scacciati, lasciati a se stessi, resi superflui, tagliati fuori come fantasmi, fin anche dalla nostra pietà. Un istante dopo si alzò e cominciò ad avvolgere nell'asciugamano la bottiglia di whisky rimasta chiusa. «Nessuno vuole un po' di questa roba, Jordan? Nick?» Non risposi. «Nick?» domandò di nuovo. «Cosa? Ne vuoi un po'?» «No, mi sono appena ricordato che oggi è il mio compleanno». Avevo 30 anni. Davanti a me si distendeva il viale presago e minaccioso di un nuovo decennio. Erano 7 quando salimmo con lui sulla coupé e partimmo per Long Island. Tom parlò incessantemente, esultando e ridendo, ma per me e Jordan la sua voce restò distante quanto il chiasso degli estranei proveniente dai marciapiedi o il tumulto della sopraelevata. L'umana simpatia ha i suoi limiti. E noi eravamo contenti che tutte quelle tragiche discussioni sfumassero alle nostre spalle assieme alle luci della città. 30 anni. La promessa di un decennio di solitudine. Una lista sempre più corta di uomini scapoli da conoscere. La valigia dell'entusiasmo sempre più leggera, i capelli sempre più radi. Ma accanto a me c'era Jordan, che al contrario di Daisy era troppo assennata per portarsi dietro sogni ormai dimenticati da un'età all'altra della vita. Mentre attraversavamo il ponte immerso nell'oscurità, il suo viso stanco si appoggiò pigramente alla spalla della mia giacca e il colpo formidabile dei 30 anni svanì con la rassicurante pressione della sua mano. Procedemmo così, verso la notte, nella frescura del crepuscolo. ¶¶